Motore partito, azione! Il sabato su Web Radio Network c'è Movieland. Movieland, il nuovo programma interamente dedicato al mondo del cinema. Novità, trailers, cinema indipendente, cortometraggi, doppiaggio sono solo alcuni dei temi che affronteremo ogni sabato dalle 18 alle 19 in Movieland. Dal mondo patinato di Hollywood al cinema italiano daremo voce ai protagonisti e sveleremo i segreti della magia cinematografica. Ogni sabato dalle 18 alle 19 in compagnia di Emanuele su Web Radio Network c'è Movieland. Vi aspettiamo! Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. So you think you can stop me and spit fire? So you Mi dispiace sempre interrompere questo capolavoro. Ben arrivati e ben trovati anche questo sabato. Sono le 18:10 circa in questo sabato 20 luglio del 2013. Siete ancora una volta con Movieland, ancora una volta insieme ad Emanuele, che vi accompagnerà fino alle 19 di questo sabato caldo e assolato in quasi tutta l'Italia. Poi ci sono regioni dove magari lo è un po' meno e dove sta iniziando magari a piovere, come qui. Speriamo che vada tutto bene e che non ci annacqui il fine settimana. Benissimo, quindi noi abbiamo iniziato con questa bellissima Bohemian Rhapsody dei Queen. Naturalmente arrivava dal film Wayne's World, Fusi di testa, del 1992. Questa bellissima, bellissima canzone che sarebbe bene su qualsiasi film, su qualsiasi colonna sonora. Oh, però noi vogliamo andare avanti, vogliamo iniziare con il nostro programma alla grandissima, e quindi lo facciamo perché purtroppo il cinema in generale, ma soprattutto il doppiaggio italiano, ha perso un grandissimo personaggio in questa settimana passata. È venuto a mancare purtroppo il famosissimo doppiatore Tonino Accolla, e noi vogliamo ricordarlo così su Movieland, su Web Radio Network. A comprare qualcosa per cena. Bistecca? Non possiamo permettercela. Bistecca? Certo, bistecca. Beh, sembra che qui sia tutto a posto. Mi sono tolto questo grosso peso dallo stomaco. Santo cielo, puoi congetturare quanto vuoi, ma se non lo vedi con i tuoi occhi non lo saprai mai di certo. Meglio tornare indietro adesso. Non crede che dovrebbe indagare? Non c'è bisogno di entrare lì dentro, né ora né mai. Leggero, impugnatura comoda, adattabile ai mancini. Si smonta in quattro parti non individuabili ai raggi X. Ideale per interventi rapidi e discreti. Potenza di fuoco garantita da un ricaricatore al titanio. 3000 cartucce, raffiche da 3 a 300 colpi. E con il bottone replay, altra invenzione della Zorg, è tutto più facile. Un colpo a segno e il replay indirizza i colpi seguenti sullo stesso bersaglio. Che ognuno interrompa quello che sta facendo, per favore. Stop! Smettete di lavorare. Mi chiamo Axel Foley, sono un ispettore dell'edilizia di Beverly Hills. Che nessuno pianti un chiodo finché non parlo col vostro caposquadra. Intanto posate gli attrezzi. Tu, metti a terra quella sega. Avanti! Ecco, fallo con la mano destra. Io di seghe me ne intendo. Il vostro capo dov'è? Me lo sono chiamate? Qui. Comanda lei qui? Sì. Voglio vedere i disegni della facciata, perché state per commettere uno sbaglio grosso quanto una casa. Cosa aspetta? Prenda il progetto. Chi è? Fermo, giù quella tavola. Axel Foley, ispettore dell'edilizia di Beverly Hills, non l'hanno avvisata? No. Lei ha rovinato la casa di quella gente. Adesso dovremo ricominciare i lavori dall'inizio. Senza lavori retti diventerà rotonda come una zucca. Ma che fa lei, l'architetto? No, hanno i soldi, vogliono vivere in una zucca. Lasciali vivere in una zucca, la gente fa i soldi. E perde la testa. Si svegliano e vogliono una casa rotonda. Bene, e tu fagliela, tanto ti pagano. No, no. Jack, avevi bisogno di me? Bruce, giusto te volevo vedere. Ciao. Uffa, quante probabilità ci sono? Perché non ti siedi? Va bene. Sarò molto sincero con te. Ti rivolgiamo qui, Bruce. Ma voglio che sia chiaro che non è stata una mia decisione mandarti via. Quando il grande capo dà un ordine, lo sai. Nessun danno, nessun fallo. Mi serviva del tempo per ritrovare i miei obiettivi e il mio vero io. E l'hai fatto in un giorno. Immagina che potrei fare in 7. Senti, non dipende da me darti il posto di Anchorman. Ma per quanto riguarda i servizi in esterna, se vuoi una promozione... Jack, piantiamola con le stronzate e andiamo direttamente al sodo. Si sei cascato, Jack. Non pensarci nemmeno, vecchio mio. Quanto mi piace spaparapacchiarmi il sabato. È mercoledì, Homer. Ah, il lavoro! Ah, il vero sabato mi fa impazzire. È così, così rilassante. Non come quel sabato fasullo che mi ha quasi fatto licenziare. Oh, Pulcino, mangia un po' di pane. Signorina Perti, lei e Sherman avete rapporti? Ottima domanda. No, le cose non stanno così. Siamo colleghi noi. Oh, lavoriamo insieme. Sì, è così che si comincia, da colleghi. Io e tuo nonno eravamo colleghi. Tutto a un tratto me lo sono ritrovato addosso. Stringeva, pompava e sudava. Nonna, le cose non stanno. Sherman, toppati quella bocca. Non hai mai portato una ragazza a casa. Il minimo che tu possa fare è lasciarci parlare con lei. A me non dispiacerebbe conoscerla un po' meglio. Non c'è niente di male ad avere una donna e non vergognarti dei rapporti. È bellissimo. Quando ero giovane io i rapporti li avevo sempre. Ogni sera Se un simpatico signore mi regalava dei fiori, dei cioccolatini e poi mi portava al cinema per trascorrere una bellissima serata, allora io me lo portavo a casa e in cambio gli offrivo dei focosissimi rapporti d'amore. I rapporti sono bellissimi, non me ne dovete vergognare, soprattutto una coppia giovane lo trovo devastante. La lingua alla babbiona. Sapete, a volte quando sto da sola ho rapporti con me stessa. Anch'io ho rapporti con la bestia. Papà, abbiamo fatto una cosa terribile. Avete sfasciato la macchina? No. Avete risuscitato i morti? Sì. Ma la macchina sta bene? Uh-huh. Allora è tutto ok. Com'è terribile la verità quando la si apprende troppo tardi, Johnny. Louis Cipher. Lucifero. Perfino il tuo nome è uno scherzo di cattivo gusto. Mefistofele è un nome troppo roboante per Manhattan, Johnny. Spacciandoti per il diavolo solo perché hai spaventato un superstizioso vecchio suonatore di chitarra e quella strega e quel vecchio pazzo. Credi di spaventare anche me? No, perché io so chi sono. Tu li hai uccisi. E stai cercando di incastrare me. Ti sbagli perché io so chi sono. Se avessi i piedi caprini e la coda a punta, saresti più convinto? Sei pazzo. Io so chi sono, stai cercando di incastrarmi. Stai cercando di incastrarmi, Cipher. Io sono Harry Angel. Tu hai ucciso tutta quella gente, io non ho mai ucciso nessuno. Non ho ucciso Fowler. Non ho ucciso Tuz. E non ho ucciso Margaret. Ne ho ucciso Cruz e Marche. Io non ho ucciso nessuno. VRN Web Radio Network. E vai, cerchiamo di scacciare il cattivo tempo che sta appunto minacciando questo bel pomeriggio con questa bella canzone estiva, Johnny B. Good, un bel twist di Chuck Berry degli anni 60, che però è stato utilizzato negli anni 80 per il film Ritorno al futuro, dove Marty McFly praticamente insegnava a suonare la chitarra ad un gruppo appunto nel film, quando lui è tornato nel passato. Benissimo, benissimo, benissimo. Allora, dove andiamo? Ah, innanzitutto, grandissimo Torino Accollo, ho voluto fare questo omaggio perché comunque lui è stato uno dei più grandi doppiatori, anche se si viene ricordato molto per Eddie Murphy e Homer Simpson, comunque ha dato la voce anche a moltissimi altri attori, tra i quali Mickey Rourke, Gary Oldman, eccetera eccetera. Passiamo alla notizia, alla prima notizia di questa giornata. puntata, perché si tratta di una web serie che niente po' di meno sta vincendo degli Emmy in America. House of Cards agli Emmy sbarca il web. Per la prima volta candidata a una serie televisiva distribuita attraverso internet. Il testa a testa sarà tra i giganti Game of Thrones e American Horror Story, ma la 65esima edizione degli Emmy Awards sarà ricordata soprattutto per la presenza di House of Cards, in lizza nella categoria miglior serie drammatica. La serie televisiva, infatti trasmessa dal servizio di streaming Netflix, è il primo show distribuito sul web ad ottenere una nomination ai prestigiosi Oscar della TV. L'altra serie trasmessa da Netflix, su cui si puntava per questa categoria, la sitcom Arrested Development, non ha ottenuto la candidatura, ma ne ha comunque ricevute altre tre, compresa una delle una per la star Jason Bateman. La cerimonia di consegna dei premi, appunto degli Emmy Awards, gli Oscar della televisione, si terrà il prossimo 22 di settembre, quindi tutti attenti, perché ne vedremo sicuramente delle belle. Oh, sentite chi arriva adesso. Questa è veramente bella. Dal film con Tom Hanks e Denzel Washington, questa è Streets of Philadelphia, del boss Bruce Springsteen. Quando siamo su Movieland, quando siamo su Web Radio Network, di questo sabato che arriveremo insieme fino alle 19. Buon ascolto con Emanuele e questo Bruce Springsteen grandissimo. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Play. E meno male che la musica svedese non arriva come i mobili di Ikea da montare, ma arriva già ben montata come questa dei Roxette. It Must Have Been Love, dalla colonna sonora di Pretty Woman, bellissimo film con Julia Roberts e Richard Gere del 1990, ma lo sappiamo tutti, bellissima questa chanson d'amour, questa bellissima canzone d'amore che io voglio dedicare a Sara, che questo pomeriggio si sta facendo una bella gita in montagna, beata lei. E quindi buon pomeriggio a Sara, ma anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo caldo, in alcune zone meno in altre, sabato di luglio. Noi però andiamo avanti, perché naturalmente Movieland non si ferma qua. Siamo oppressi da gente che ha barato per ottenere ciò che ha. Possiamo cambiare tutto. Sicuro che nessuno si farà male? Ho visto un sacco di film, so quello che faccio. Colpiscimi! Tu hai steso, ma perché l'hai fatto? Ok, devo leggere il manuale. Avevi detto niente violenza. Finita questa storia, andremo in campeggio. Va bene. Pain and Gain, muscoli e denaro. Che ci fanno qui? Mi avranno chiamati perché c'è un nero in giardino, ecco che ci fanno qui. Missione abortita. Al cinema. Ancora una settimana insieme a FilmUp, il portale del cinema, insieme ancora una volta a Erika Melis, che gli rimane molto poco tempo di sofferenza, poi andrà in vacanza. Ciao Erika, buongiorno. Conti i giorni ormai. Conti i giorni, ci credo, ma con questo caldo fai benissimo a anelare le vacanze in tutti i modi. L'abbiamo già fatto all'inizio del programma, ricordando il grandissimo doppiatore Tonino Acolla, però questa di questo 2013 è una vera ecatombe, perché stanno morendo tutti, quindi morti importanti nell'ambito cinematografico, raccontaci. Sì, purtroppo è venuto a mancare anche Vincenzo Cerami, che magari più non dirà niente, però è un famosissimo sceneggiatore e scrittore. Sua è la sceneggiatura di La vita è bella con Benigni, che poi, come tutti sappiamo, ha vinto ben 3 Oscar. Certo. L'altra morte invece purtroppo è ancora di un attore più giovane, appena 31enne, è un attore americano, Cory Monteith, uno dei protagonisti di Glee, il telefilm famosissimo che ha avuto molto successo in questi anni. Purtroppo il giovane attore è morto per un'overdose di urina e alcol. Sappiamo che a Hollywood ci sono anche di questi problemi, insomma ci sono attori anche molto giovani che non sanno gestire più di tanto il successo, si lasciano trasportare in ambienti poco interessanti. Vabbè, però parliamo anche di qualche attore che invece sta avendo il suo momento di successo, la sua gloria. Parliamo appunto di Dwayne Johnson. Sì, infatti, da pochissimo ha avuto molto successo con Fast and Furious, che è stato in vetta alle classifiche, come sappiamo, per tanto tempo. Sì. E ora è al lavoro su un nuovo film. Guarderà sul grande schermo niente meno che Hercules. Tant'è vero che iniziano ad arrivare le prime immagini dal film. Il film uscirà nel 2014, certo, intorno a luglio dovrebbe uscire, e sarà diretto da Brett Ratner, lo stesso che ha firmato X-Men Conflitto Finale e anche la saga di Rush Hour, non so se ti ricordi. Mm-hmm. E quindi dobbiamo aspettare l'anno prossimo, praticamente quasi tra un anno intero, per vedere Dwayne Johnson in questo Hercules, però abbiamo l'occasione di vederlo prima, giusto? Sì, assolutamente, perché da giovedì è al cinema con Pain and Gain, Muscoli e Denaro, dove recita al fianco di Mark Wahlberg in una commedia d'azione diretta da Michael Bay. Johnson e Wahlberg interpretano due culturisti rovinati dagli steroidi che decidono di rapire un ricco uomo d'affari e chiedere un riscatto. Benissimo, altri film in sala? Cosa ci consigli questa settimana? Io continuerei a ridere con Facciamola Finita, è una commedia che ironizza sulla fine del mondo, con tanti attori famosi tipo Seth Rogen, James Franco, Emma Watson, l'Hermione di Harry Potter, tanto per intenderci. Certo. Praticamente questi attori interpretano se stessi, sono tutti insieme in una lussuosissima villa di Los Angeles, mentre fuori capita di tutto, la città viene totalmente distrutta da disastri assurdi, ecco. Un'altra volta, qui tra Los Angeles e New York l'avranno distrutta e rifatta 50.000 2000 volte gli americani. Va bene, un altro film ancora in uscita, giusto? Allora, per gli amanti dei profiler stile Criminal Minds arriva in sala anche Alex Cross, dove rivedremo il bel Matthew Fox di Lost, qui nei panni di uno spietato serial killer sulle cui tracce troviamo proprio il profiler, il detective del titolo. Andiamo, arriviamo al botteghino, facci sapere chi è che ha guadagnato di più la settimana passata. Questa settimana c'è stata una sorpresa, perché tutti si aspettavano che in vetta avrebbero trovato il nuovo film di Guillermo del Toro, e invece troviamo Now You See Me, che ha superato, anche se di pochissimo, Pacific Rim. Benissimo, io ho visto il film, molto interessante, nella puntata avremo anche una recensione su questo film, quindi occhio ma soprattutto orecchio a quello che andremo dicendo. Io ringrazio ancora una volta Erika Melis, che è stata insieme a noi della redazione del portale di cinema Film Up, ricercabile su internet al sito www.filmup.com per tutte le notizie cinematografiche aggiornate. Io ti ringrazio, ci sentiamo la settimana prossima e poi ti saluto per due settimane perché te ne vai in vacanza. Sì, ok, alla settimana prossima, ciao a tutti. Ebbene sì, siamo tornati alle canzoni un po' datate di grandissimi film che hanno fatto veramente la storia del cinema e della nostra gioventù. Io mi vergogno quasi a dire che questo bellissimo Footloose di Kenny Loggins, che la canzone di Kenny Loggins, il film con Kevin Bacon, fosse del 1984, perché mi sento terribilmente vecchio. Quindi se volete svecchiare un po' anche la musica di Movieland, vi ricordo che a movieland.radio@gmail.com io ricevo volentierissimo le vostre indicazioni per la scaletta anche del prossimo programma. Oh, ma parliamo però di libri e di librerie. Cosa c'entra? C'entra perché il protagonista è Robert Downey Jr. Forbes lo dà come l'attore più pagato di Hollywood e questo fa discutere, ma fa anche scrivere. Infatti ben 3 libri su di lui sono usciti negli ultimi tempi. Robert Downey Jr. The Biography, curato da Marty Auden, pubblicato anche come audiolibro. Ripercorre la carriera dell'attore da Iron Man a Zodiac fino a Sherlock Holmes. Il volume rivela dettagli del suo debutto cinematografico all'età di 5 anni fino al tentativo di diventare un attore comico durante il periodo sfortunato di Saturday Night Live, fino al nomination all'Oscar per il ruolo di Charlie Chaplin per l'omonimo film. Ma non solo, non ci fermiamo qui, perché c'è pure un altro libro, Robert Downey Jr. Handbook, il manuale di Robert Downey Jr. praticamente, di Emily Smith. Qui un aspetto rilevante lo occupa il film in cui Downey Jr. divenne un attore di successo, ossia Less Than Zero. Seguono poi Air America, Natural Born Killers, fino ad Iron Man, la pellicola Disney del 2012, The Avengers, è già in cantiere appunto The Avengers 2. Un altro libro invece, ben tre libri per Robert Downey Jr., The Fall and Rise of the Comeback Kid di Ben Falk, dell'attore che qui si ripropone il periodo in cui fu in prigione per possesso di stupefacenti fino alla disintossicazione, mamma mia, avvenuta nel 2003, e al guadagno milionario che ora riesce ad avere per la sua professionalità, circa 25 milioni di dollari a pellicola. L'autore considera Downey Jr. l'esempio lampante della grande rimonta di Hollywood, quindi niente proprio di meno, vi interessa 25 milioni di dollari, diventate bravi come Downey Jr. e poi forse, non si sa mai, magari ci potete anche riuscire. Cosa sono queste note di pianofortis? Pianofortis. Benissimo. Joe Cocker, Jennifer Warnes, Up Here We Belong. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way. But we climb a stair every day. Thank you. farci rapinare la sua banca. Lei verrà teletrasportato dalla sua banca di Parigi. Vogliamo restituirvi parte di quei soldi. Vuole sapere come hanno fatto? Dica la parola magica. Non tengono un centesimo per sé. Perché? Assisteremo a qualcosa di veramente strabiliante. Non possiamo smettere adesso. È stato toccante. Viene dal cuore. Beh, non ti ho detto dove mi hai toccato. Now You See Me, i maghi del crimine. A chi non piace un bel numero di magia? Da giovedì 11 luglio al cinema. Oggi a Movieland abbiamo una new entry, si chiama Simone, lui si diletta recensendo film, già collabora con il portale cinemacritico.it e sto parlando di Simone Ebenestelli. Ciao, buon pomeriggio. Sì, ciao, buon pomeriggio a tutti. Simone verrà a trovarci ogni tanto con le sue recensioni, magari non tutte le settimane, magari una settimana sì, una settimana no, comunque con le recensioni dei film appena visti in sala. Questa settimana vogliamo parlare del film campione di incassi che è Now See Me. Simone è stato a vederlo per noi, raccontaci cosa, come ti è sembrato questo film. Beh, il film è caratterizzato da una grande vivacità, specialmente nelle fasi iniziali, cioè parte subito forte. L'idea di fondo è molto interessante e meritava sicuramente di essere approfondita. Il tema classico del crimine mischiato a illusionismo, mentalismo, è un mix esplosivo, effettivamente ha funzionato, pacca di brutto. Tutto questo almeno nei primi 40 minuti, dopodiché assistiamo a un passaggio tra dinamismo puro e ricercato a una certa confusione di fondo. Sono tanti gli eventi che si mischiano, le situazioni sono però non analizzate a fondo e quindi si crea un po' di confusione. Forse il problema principale è proprio queste esagerazioni tutto per tutto, sia nel creare tutta una serie di enigmi che effettivamente sono ben confezionati e anche intriganti per certi versi. Però poi anche nello spiegarli dà quasi l'idea di essere una puntata in alcuni casi della signora in giallo. Oltretutto il film dura quasi 2 ore, quindi insomma di tempo ne hanno avuto. Sì, sì, sì. Sono 2 ore, però in realtà secondo me ce n'era per 6 ore, perché effettivamente c'è parecchia carne al fuoco. E soprattutto verso il finale si percepisce che l'inserimento di tutte le varie spiegazioni, chiarimenti, arrivano per coprire un po' forse dei buchi nella trama che altrimenti sarebbe stata di difficile comprensione, ecco. Certo. Una nota invece molto positiva è che c'è un cast stellare a tutti gli effetti e che non è fine a se stesso, ecco. non ci sono veri e propri mattatori, ma tutti in modo pulito giocano la stessa partita, ecco, a disposizione della storia. Che voto gli diamo in conclusione a questo film? Un film da 6,5, 6,5, 7, che però poteva ambire tranquillamente all'8 se fosse stato un attimino gestito con più pazienza e con più dettaglio, ecco, con più cura. Comunque per lo standard a cui purtroppo ci stiamo abituando. Abituando, sì, in effetti sono un paio d'ore di puro divertimento ben fatto che tutto sommato non deluderanno gli spettatori, ecco. Benissimo, ringraziamo Simone che questa settimana grazie è stato con noi con Now You See Me. Ti ringrazio. Un saluto a tutti. Un saluto, ciao. Ciao. Senti qua che chitarra, secondo me oggi gli amanti del rock si sono veramente scatenati con questa puntata di Movieland. Moltissime canzoni rock, moltissime leggende del rock, da Chuck Berry, Bruce Springsteen, Joe Cocker, Kenny Loggins, ebbene sì, oggi puntatona rock con tutta musica da film. Infatti anche questa, My Sharona dei Knack, arrivava da Giovani Carini e Disoccupati del 1994, un film che è stata la prima regia di Ben Stiller, produzione di Danny DeVito. Quindi ebbene sì, quando gli attori diventano registi e produttori, My Sharona con The Knack. Però la prossima che arriva invece è una canzoncina che ci arriva appunto da un film con Jackie Chan e Chris Rock, che era di qualche anno fa anche lui, Rush Hour, giusto? Oh yes. To me. E questo era Edwin Starr con la sua band, con questa bellissima canzone War, appunto dal film Rush Hour con Jackie Chan e Chris Rock. Questa bellissima canzone intitolata War, guerra, le parole del testo dicono: per cosa è buona la guerra? Assolutamente per nulla, dice il coro. Benissimo, questo era Edwin Starr quindi. Ah, però noi vogliamo andare avanti perché siamo arrivati quasi alla fine del programma, ma l'ultima notizia non ve la toglie nessuno. Avete mai visto un film indiano? Sappiamo che l'industria cinematografica in India è grandissima, però chi ha visto mai un film indiano? Io no, sinceramente. Però adesso ne abbiamo la possibilità. Infatti Feltrinelli e Bim festeggiano i 100 anni di Bollywood. In occasione dei 100 anni compiuti nel 2013 da Bollywood, ovvero l'industria cinematografica più grande del mondo, festeggiamenti anche nel corso dell'ultimo Festival di Cannes, Feltrinelli Real Cinema porta in libreria, in collaborazione con Bim Distribuzione, il volume Made in India, costituito da 80 pagine a cura di Emilia Bandel, volte ad analizzare l'unico fenomeno della celluloide che sembra essere riuscito a resistere all'influenza hollywoodiana. Presente all'interno della confezione, insieme al testo, abbiamo anche il DVD Bollywood, la più grande storia d'amore. Scatenato tributo a Bollywood che, immerso in colori travolgenti e incomprensibili numeri musicali, porta la firma di Rakesh Oprakash e Jeff Zimbalist. Oltre 70 minuti di visione ricchi di spezzoni provenienti da vecchi e nuovi film, sebbene venga ribadita l'importanza della recitazione, si tende anche a ricordare che essa interessa poco al pubblico indiano, in quanto interessato solo al divertimento e alla vera storia d'amore, perché è proprio attraverso quegli improvvisi passaggi al ballo e al canto che esprimono il loro modo di vivere gli indiani, la cui cultura, che vorrebbe essere bandita da molti, da un secolo incolla davanti allo schermo 2 miliardi di persone in tutto il mondo, comunque la si pensi. Hai capito cosa fanno gli indiani? Vabbè. Noi ci ascoltiamo l'ultima canzone. Ce la mandi il regista? Eccolo qua. In the middle with you, infilato nel mezzo insieme a te. Questi erano gli Steelers Well, dal film, ve lo ricordate quale? Da quale film l'ho tirata fuori questa? Da Le Iene, del 1992, uno dei grandissimi film di Quentin Tarantino, il primo, se non mi sbaglio, non vorrei dire cavolate, comunque poi mi andrò a documentare. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, mancano solamente 3 minuti alle 7 al giornale orario, quindi io vi saluto, vi do appuntamento alla settimana prossima. Naturalmente vi ricordo che sono Emanuele, questo che avete appena ascoltato era Movieland, in replica lunedì sera da mezzanotte a l'una, o lunedì o domenica, vabbè, voi ascoltate, sintonizzatevi sulla radio da mezzanotte a l'una e ascoltate se c'è Movieland. Se non c'è Movieland cambiate, ma no, la programmazione di Web Radio Network è tutta fantastica, quindi anche se non ci sono io ascoltate pure, ma ci mancherebbe. Vi ricordo che per mettersi in contatto con noi movieland.radio@gmail.com e per mettere il mi piace pace sulla pagina Facebook, facebook.com/movielandonvrn. Io saluto tutti gli ascoltatori che sono stati insieme a noi in questo pomeriggio, saluto ancora Sara, saluto tutti i collaboratori, Erika Melis, Simone Benestelli, che ci hanno accompagnato in questa puntata, e vi do appuntamento alla settimana prossima. Ragazzi, ragazze, buonasera, è stato bello. So my baby cried for this babe could cry. What could I do? Network.